Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, canta Jovanotti, e io vi dico baciatevi spesso. Voi come ve la cavate in quanto a baci? Oggi parliamo proprio di questo gesto che racchiude in sé molti diversi significati e funzioni, anche ma non solo in termini di intimità di coppia. Beh, tu hai detto bacio. È un problema? Ecco, no, non è un problema, non lo so se Albert, tratta di allegra colla. 8 donne su 10 sono convinte che il primo bacio dirà loro tutto ciò che devono sapere su una relazione. E credi a me, lei ce l'ha già fatto. Un pensierino. Sul serio? Oh, è naturale, cioè non è che farà niente in proposito, quindi non è poi gran cosa. Non è una gran cosa, allora? È una grandissima cosa, Albert! Immensa! Monumentale! Tu non stai a sentire! Voglio che ti metti in testa una cosa. Domani sera, Allegra Cole potrebbe avere il suo ultimo, primo bacio. Da Itch torniamo e prendiamo spunto per parlare di baci. Scriveteci e chiamateci il vostro primo bacio, il primo bacio dei vostri figli, i baci dell'età adulta. Raccontateci tutto e noi alla telefonata o al messaggio più originale, vi ricordo i numeri 800 24 00 24 per chiamarci, 349 238 6666 per inviarci un messaggio. Faremo avere il libro Piccola enciclopedia del bacio, edito da Vallardi, un libro molto carino dal quale prenderemo spunto per farvi ascoltare numerosi inserti e curiosità dedicati proprio al tema di oggi. È in linea con noi, io lo saluto con un bacio, Alberto Pellai. Ciao Alberto! Ciao Nicoletta, allora un bacio a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E le ascoltatrici soprattutto, che prego a intervenire all'800 24 00 24 e direi di cominciare dall'ABC, dalla ricetta proprio descritta con sapiente precisione dall'autrice del libro, Lana Citron. Ingredienti: un paio di labbra ben disposte, intenzioni sincere e un cuore caldo, un pizzico di dolci sciocchezze, un sussurro col fiato sospeso, una spruzzata di sospiri. Esecuzione: il successo di questa ricetta sta nell'utilizzo meticoloso degli ingredienti migliori. Non sono tollerati prodotti di seconda scelta. Dopo essersi procurati tutto il necessario, il modo di procedere è di una semplicità estrema. Basterà il contatto di labbra su labbra, la delicata sensazione delle vostre su quelle di un'altra persona in un dolce momento di assoluta beatitudine. Il bacio perfetto dovrebbe risvegliare tutti i sensi, intossicare con il suo profumo, dilettare la lingua, solleticare le labbra, mandare brividi in tutto il corpo, creando l'essenza stessa dell'estasi. Siete capaci di baciare così? Raccontatecelo. Intanto io voglio salutare la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, direttore del Centro di Ginecologia Medica all'ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professoressa, il bacio è proprio l'espressione più intima tra due persone che si amano. Per una donna forse più ancora dell'uomo, o sbaglio? No, lei dice benissimo, ma direi che prima di tutto dobbiamo andare a vedere qual è l'evoluzione del bacio. Guardiamo i bambini, perché da lì si cominciano a capire molte cose sul perché sia così fondamentale nella nostra vita. Quando il bambino succhia il seno, ha un'espressione beata. Ma questa espressione beata nasce dal fatto che attraverso la suzione questo bambino ha una stimolazione importantissima, che è gustativa, evidentemente, è tattile, non solo delle labbra, della lingua, ma anche delle mani, è olfattiva, e ricordo una cosa molto interessante, che l'attrazione sessuale è determinata dai feromoni, ma dobbiamo sapere che i recettori per i feromoni, che sono sostanze secrete delle ghiandole sebacee del partner dell'altra persona, vengono recepite non solo dai recettori della mucosa nasale, ma anche dai recettori situati nella lingua e nella bocca. Quindi noi abbiamo due sensi chimici, che sono appunto l'olfatto e il gusto, che vibrano, potremmo dire, sulle stesse note, recepiscono la stessa musica, ed ecco perché il sapore dei baci è in genere parallelo, cioè ha lo stesso orientamento, la stessa gradevolezza del fatto di amare l'odore dell'altro, certo se l'igiene è adeguata. C'è. E di converso, quando una coppia, per esempio, chiedo vi baciate ancora, e dice no, non ci baciamo più, vi piace ancora baciarvi? No, questo è un segno prognostico negativo, perché significa che si è perso qualcosa di importante, addirittura mi fa schifo il bacio dell'altro, addio, qua siamo fritti. Cioè, meglio se litigano come cane e gatto, ma il bacio piace ancora, perché allora vuol dire che l'attrazione fisica profonda c'è ancora, ci possiamo lavorare. Se invece si è persa questa attrazione o addirittura è diventata avversione, lì la prognosi è di vero, diciamo, riservata, per non dire pessima. Ma poi, prego. Quindi, professoressa Graziottini, vorrei coinvolgere anche Alberto Pellai, un po' il bacio è un termometro dell'affiatamento, dell'amore, dell'intimità di coppia, parlo di baci in coppie che sono già collaudate? Assolutamente sì, perché è un momento di intimità straordinaria, tanto vero che le prostitute possono dare tutto il corpo ma non baciano, e di converso quanto più forte è coinvolgimento affettivo ed emotivo, quanto più siamo innamorati, tanto più ci perdiamo nei baci, anche per delle ore, senza fare nient'altro che baciarci, perché in quel baciare c'è qualcosa di profondissimo. Intanto si riattivano delle memorie arcaiche di felicità infantile, poi abbiamo un incremento, a parte il piacere fisico, ma questo piacere fisico è mediato da modificazioni importantissime a livello del nostro cervello. Basti dire che aumentano immediatamente le endorfine, che sono le molecole della gioia, aumenta la serotonina, che è il neurotrasmettitore del buon umore, aumenta anche la dopamina, che è il neurotrasmettitore delle estroversione, ma anche del desiderio, della voglia di fare. In altre parole, tutto il nostro cervello, quando ci baciamo appassionatamente e baciamo la persona di cui siamo profondamente innamorati, viene portato sulle tonalità di luce migliore, potremmo dire, e dal punto di vista biologico, questo è anche molto importante, il bacio ha una capacità antistress formidabile. Perché? Perché noi per baciare bene dobbiamo avere una buona salivazione. Per avere una buona salivazione significa che è molto attivo il nervo vago, che io chiamo in termini semplici il comandante dei tempi di pace, perché è il nervo che governa tutte le nostre funzioni fisiologiche quando stiamo bene, quindi la salivazione, la digestione, il buon sonno, il battito cardiaco rilassato, i muscoli rilassati. Quando noi stiamo bene con il mondo siamo sotto il dominio del vago, quando siamo stressati siamo sotto il comandante dei tempi di guerra, quindi sotto l'adrenalina, il cortisolo, che provocano vasocostrizione ma anche blocco della salivazione. Tanto vero che quando una persona ha ansia da prestazione o comunque si sente inadeguata, la prima cosa che gli si blocca è anche la salivazione. Quindi, professoressa Graziottini, penso che sarà d'accordo anche Alberto Pellai, baciamoci, non baciamoci ancora, baciamoci spesso. Ricopriamo il bacio. Voglio leggervi un messaggio che ci ha mandato da Simone da Verona, è un messaggione direi. Il vero bacio che ho dato la prima volta, quella che sarà poi mia moglie, è stato stupendo. Aula universitaria, io che continuavo a messaggiare con lei con dei fogliettini, ad un certo punto ho preso il coraggio, mi sono girato e l'ho baciata. Avevo un sorriso da beato che non voleva andarsene, tanto che il professore esordito con: vorrei sapere perché Simone ha quello splendido sorriso. Alberto. Ma direi che è una bellissima. Ma capitano storia. Ancora, tu che sei professore, capitano ancora questi baci nelle aule universitarie? Frequentiamole. No, probabilmente capitano nelle scuole, alle scuole elementari. Questo credo che sia uno dei problemi, cioè l'aver precocizzato tutto tantissimo, non aver costruito anche un percorso del sogno e del desiderio intorno al primo bacio, averlo reso una sorta di prestazione-azione da bruciare in fretta e non da sognare, progettare, cercare, quindi poi condividere. Ecco, credo che questo sia uno di quegli aspetti per cui a me, che mi occupo di educazione affettiva e sessuale in età evolutiva, in questo momento credo proprio diventi necessario una sorta di psicopedagogia del bacio. Dovremmo proprio entrare nelle scuole in età evolutiva, nelle scuole medie, inferiori e superiori, e aiutare ragazzi e ragazze non tanto a darlo, quanto a cominciare a sognarlo, progettarlo, presidiarlo prima con la fantasia, lavorare a lungo intorno al primo bacio con la mente prima che poi diventi un'azione concreta, perché poi quando l'hai dato il primo bacio non sarà mai più, ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, ma il primo probabilmente è quello che lascia un timbro indelebile nella tua memoria emotiva. Ecco, vorrei proprio chiedere ai nostri ascoltatori da casa se il primo bacio per loro è stato veramente un momento importante, se lo ricordano ancora, se gli altri sono stati, se vogliamo, dei termini di paragone rispetto al primo. 800 24 00 24, io vorrei farvi sentire i dati di una curiosa ricerca che è proprio citata nella piccola enciclopedia del bacio. Il giornale online getlippi.com nel giugno del 2004 condusse un sondaggio su un gruppo di donne di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Le intervistate dovevano rispondere a domande sui baci e le risposte rivelarono che il 95% avrebbe desiderato essere baciata di più. Il 29% affermava di non baciare quotidianamente. Il 24% non aveva baciato qualcuno da oltre un anno. Il periodo medio trascorso senza baciare andava dai 3 ai 6 mesi per quasi il 30% delle donne. Il 37% confessava di essersi esercitata a baciare in gioventù baciando la propria mano e l'11% uno specchio. Il 25% delle donne ammetteva di avere ancora da imparare. Professoressa Graziottin, prima di salutarci, un commento a questi dati, tutti che raccontano tutto il desiderio di baci delle donne. Sì, ci raccontano anche le assenze, d'altra parte non possiamo nemmeno baciare persone con le quali non sia un feeling profondo, anche perché il bacio rivela moltissimo di noi, rivela moltissimo dell'altro e mette a nudo la nostra verità, soprattutto se ci prendiamo il tempo per assaporarlo, per desiderarlo e per lasciare che le vibrazioni dell'altro entrino dentro di noi. Invece oggi c'è una frenesia accelerata in cui il tempo dell'erotismo, non per tutti per fortuna, ma per molti, è molto concitato, tende ad andare subito sulla penetrazione e quindi si perde veramente quella capacità, tra l'altro, di eccitare potentissimamente, in particolare la donna. Una donna che baci appassionatamente arriva a livelli di eccitazione mentale, cerebrale, fisica e corporea generale altissimi, mentre molte donne poi si lamentano di non avere piacere o di essere anorgasmiche, ma perché? Perché non c'è stata questa fase di eccitazione formidabile, che non è neanche delle carezze, è proprio di un bacio appassionato, perché quando poi noi baciamo si forma questa piattaforma orgasmica, questa grande congestione genitale che poi è il prerequisito biologico perché la donna possa avere 1, 3, 5, 10 orgasmi se è proprio partita, quindi, felice e festosa. Professoressa Graziottin, agli uomini cosa diciamo? Baciate le vostre donne in modo appassionato. È reciproco, a volte sono le donne che tendono a evitare il bacio, molti dei mariti si lamentano per esempio di questo, allora io parto dalla domanda basic, lei cura moltissimo l'igiene della bocca, sono domande banali, addirittura brutali, però troppo spesso nel matrimonio si perde la cura del sé che abbiamo invece quando dobbiamo incontrare un fidanzato nuovo o un amante, e invece è importantissima una cura del corpo che passa anche per un'accuratissima igiene della bocca, in modo tale che ci possa essere tutto il profumo della nostra verità, dei nostri feromoni, della nostra bellezza, non insidiata poi da quella prosaica poca cura di sé che può far passare la voglia di baciare, soprattutto nella coppia stabile, perché proprio nella coppia stabile dove vediamo che il bacio latita, scompare, e questo è un fattore predittivo poi di crisi della relazione. Professoressa Graziottin, la bacio, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Tutti, buona giornata a voi tutti, grazie, buongiorno. Si avvicinarono e le loro labbra si fusero in un bacio. Un lungo bacio di giovinezza e d'amore e beltà, in cui tutto confluì come raggi in un fuoco acceso in cielo. Tali baci appartengono ai primi giorni. Byron. I baci della giovinezza. In linea con noi abbiamo una delle giovanissime che quest'anno ha calcato il palcoscenico del Festival di Sanremo. Saluto Gabriella Ferrone. Ciao Gabriella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gabriella, io vorrei far subito fare un sentire un pezzettino del tuo Un pezzo d'estate che ci porta proprio non c'è canzone direi più adatta al tema di oggi, perché per molti di noi il primo bacio è stato proprio un pezzo importante di una delle proprie estati dell'adolescenza, quindi Un pezzo d'estate. Sei tu che togli a te un pezzo dell'estate, un po' tra di me, un po' tutte le tue giornate. Sei tu che togli a te il bello dell'estate, e disce pure te il tuo sorriso stupido. So, ma non importa, no. Gabriella, d'estate o non d'estate, com'è stato il tuo primo bacio? Parliamo del... tu sei tra l'altro giovanissima, quindi non fai neanche tanto fatica a ricordarlo, no? Beh, sono piccolina, ho 21 anni, sono abbastanza giovane. Il primo bacio, oh mio Dio, chi se lo ricorda? No, vabbè, ero imbarazzatissima, come tutti quanti, no? Il primo bacio. E niente, che cosa vuoi che ti dica in merito? Hai pensato, è meraviglioso oppure tutto è qui, oppure devo ancora esercitarmi un po'? Che cosa, no, che cosa ti è passato? Schifo. Quindi è stato Alberto, a volte il primo bacio non è così bello come poi vogliamo farlo intendere, come mai? Ma perché in generale tutte le prime volte sono proprio tappe che possono succedere, devono in qualche modo succedere al momento giusto, con la persona giusta, il tempo giusto, vanno preparate. Spesso il primo bacio è anche una cosa che invece è improvvisata, rubata, eccitata, ma giocata lì, sul momento, nel qui ed ora, e quindi coglie molto molto di sorpresa. Quello che dice Gabriella, tra l'altro, è un'esperienza per molti molto comune, cioè il fatto che c'è un'intimità così forte tra i corpi, la lingua, cioè questa zona di contatto per la quale a volte non si è pronti, scatena delle reazioni che sono diverse da quelle che uno magari si era immaginato. Andiamo da Bruno, che ci chiama da Piacenza. Buongiorno Bruno. Buongiorno a lei. Sì, io volevo raccontare molto sinceramente la mia storia, che non è stato un bacio proprio come me l'aspettavo all'inizio, è stato un bacio un po' violento. Io andai al cinema con un mio cugino, sì, che aveva la sua morosina, avevo 14-15 anni insomma, e insieme a questa ragazza qui ha portato due cugine. E siamo andati al cinema tutte tre e due cinque, sì. Lui si è seduto davanti e noi ci siamo seduti dietro al cinema, sì. Una ragazzina era da parte, un'altra ragazzina un pochino più con gli anni, avrà avuto 17 anni, sì. Io ne avevo 14 o 15, e tutto un tratto mio cugino si bacia davanti e una delle ragazze fa: hai visto tuo cugino? Vabbè, pazienza. Devo dire, io non sapevo proprio. Tutto un tratto questa cugina qui mi prende e mi dà un bacio quasi violento. E lei, Bruno, com'è rimasto? E sono rimasto male, non è stato un gran bacio, sono rimasto un po' così, miseria, ho detto, che poi non è stato un bacio sulla bocca e basta, è stato un bacio profondo ma troppo violento, io era il mio primo bacio, non me l'aspettavo. Dopo la fine del primo tempo, qui viene il bello, mio cugino si gira e mi dice: ma insomma non combini niente, ma no, insomma. L'altra mia sua cugina, che era seduta a sinistra, mi ha dato un bacio anche lei. Ma Bruno, ma lei è veramente un uomo irresistibile, meno male che a Piacenza. Avevo quindi 14-15 anni, altro che irresistibile, non sapevo niente. Senta Bruno, poi è andata meglio? Sì, poi l'iniziativa l'ha presa lei. Sì, brava. Ok, grazie Bruno per questo racconto. Il primo bacio non è stato così eclatante. Allora, cercheremo proprio oggi insieme a voi, insieme ai nostri esperti, di vedere quanto il primo bacio ci ha segnato e soprattutto se adesso baciamo ancora, parlo soprattutto alle coppie collaudate, perché ricordando quello che ci ha detto la professoressa Graziottina, è proprio un termometro della salute, intesa in senso lato, della coppia. Io ringrazio ringrazio Gabriella Ferrone per essere stato con noi. Buoni baci anche a te e in bocca grazie al lupo per tutto. Guarda, vi mando un grande bacio. Grazie Gabriella. Noi andiamo a sentire i mercati, poi andiamo a sentire il meteo e poi, se volete parlare di bacio, dei vostri baci, dei baci rubati, dei baci attesi, sperati, tornate qua insieme. Vi aspetto con un bacio. Essere e benessere. Ti comunico ufficialmente che io quest'estate bacerò e penso che potrei spingermi anche molto oltre. Ma molto molto, eh? Il ragazzo che mi piace si chiama Telmo, è gorbetello e si occupa di pulire le piscine. Accidenti, quante ne ha? Le piscine degli altri, le fa di lavoro. Sono una povera sfigata. Io, anche se ne dimostro di più, ho soltanto 13 anni, quasi 14. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Però è come se ne avessi 17, anche per tutte le esperienze che ho avuto. Poi guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. Lei ballerà. Ciao, agosto 1987. Benvenuta, mitica estate del mio primo bacio. Il primo bacio, ma anche quello che avete magari dato oggi al vostro compagno e alla vostra compagna prima di uscire ad andare al lavoro. Baci appassionati al Gianni da Lecce, buongiorno. Buongiorno. Gianni, volevo lei è un bacione per... o no? Sì, no, è un bacione perché ci siamo baciati, adesso è mia moglie, quindi ci siamo baciati che lei aveva 14 anni e io ne avevo da poco maggiorenne. Sì. Quel periodo non è che si baciavano tutti come fanno adesso, che neanche si conoscono e si baciano. Eravamo in campagna dove sto adesso e sto ascoltando anche la radio. Sì. E quindi i suoi genitori si erano un po' distratti e io frequentavo la sua casa perché ero comunque amico di suo fratello, insomma, e ci siamo innamorati. Quando abbiamo dato il primo bacio io mi sono sentito come se mi dessero dei pugni nello stomaco tremendi. Quindi, veramente? Sì. E adesso ancora succede... Sono che viene un po' di tremarella alle gambe. Anni, sì, che sono sposato, quindi appena i figli e i nipoti ce lo permettono, ci baciamo per tanto tempo, 20, 30, anche mezz'ora a volte, perché ci piace tantissimo. Dai. E ricordando sempre quel periodo che era sotto un bellissimo albero di pino che c'è ancora con le altalene, con queste bello cose. Gianni, saluti, sì. Saluti sua moglie e la baci, esatto, le mandi un bacio anche da parte mia. Claudia da Varese, buongiorno. Pronto, grazie. Niente, le racconto il mio primo bacio, che è stato l'unico bacio più bello della mia vita. Sì. Ed è accaduto quando avevo 14 anni. Mm. E mio marito fece di tutto per incontrarmi, mi ricorderò sempre, tramite una mia cara amica organizzammo un'uscita, siamo andati in un bar a bere qualcosa e poi mi accompagnò a casa in macchina, perché tengo presente, mio marito ha 12 anni più di me. Mm. E io ero una bambina. E mi ricordo che ci fermammo in macchina sotto casa, tra l'altro c'era un lampione che illuminava proprio l'auto. Perfetto, no? E proprio, sì, guardi, un angolo meraviglioso, cielo stellato, e mi ricordo che era in primavera. Mm. E ci guardammo negli occhi, c'è stato un attimo di silenzio e da lì mi baciò, è stato un bacio così profondo che veramente non ho mangiato per 3 giorni. Veramente. Mia madre mi disse: Claudia, ma cosa ti è successo? Mamma, non sto bene, ho un buco nello stomaco, non riuscivo più a mangiare, avevo la tremarella, non dormivo di notte. È stata un'emozione fortissima. Claudia, da quanto tempo continua a baciare quel ragazzo del lampione? Guardi, mio marito, ma ancora adesso, guardi, noi siamo insieme da 22 anni, abbiamo 2 meravigliosi bambini. Mm. E ancora adesso, quando ricordiamo il nostro primo bacio, proviamo una forte emozione, addirittura ci vengono le lacrime agli occhi perché ricordiamo quel momento meraviglioso che ci siamo regalati. E comunque certo, è stata un'emozione non solo da parte mia ma anche da parte sua. E sì, bisogna essere sempre in due, Claudia, se no il gioco non funziona. Grazie a Claudia il suo primo bacio, ma mi piacerebbe anche che voi mi raccontaste come state vivendo nella quotidianità i vostri baci. Vi siete ancora dei baciatori? 800 24 00 24. Alberto, queste storie di primi baci. sono state proprio delle narrazioni molto emozionanti, e secondo me ci fanno vedere, ci mostrano, soprattutto a noi adulti, a noi genitori, quello che dovremmo in qualche modo sperare e sognare per i nostri figli, cioè il primo bacio come un momento di costruzione, di proiezione, e non come un'azione da rendere il più precoce possibile o da bruciare, ecco. Direi che sono tutte state storie, poi soprattutto l'ultima, inserita in una narrazione che è cominciata lì e dura tuttora, e c'era così tanta emozione forte, bella, è arrivata a tutti noi, insomma, che ci fa immaginare che quando parti bene poi puoi proseguire ancora meglio. Con 24.000 baci, oggi saprei perché l'amore vuole ogni tante mille baci, mille carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore. E con 24.000 baci salutiamo la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica al Polo Universitario Luigi Sacco di Milano. Professoressa Gismondo, buongiorno. Buongiorno, io sono emozionata, ho ascoltato delle cose stupende. Penso che adesso però poi io romperò questa atmosfera, no? Perché il mio approccio è un po' più scientifico-microbiologico. Eh, no? Certo. Senta, Antonio mi scrive: il bacio severo fa venire la tremarella alle ginocchia. Mentre ho letto che Socrate scriveva nulla, diceva che nulla più dei baci attizza il fuoco dell'amore. Ma io non sono una filematologa. Però che fa? Ci sono persone che dicono anche che oltre a dare una sensazione di grande piacere, secondo alcuni avrebbe anche un potere terapeutico. C'è chi dice che anche aumenti addirittura le difese immunitarie. Mi sembra un po' grossa. Lei che dice? È che è vero. Invece non è così grossa, nel senso che se vediamo il bacio dal punto di vista scientifico-medico, sì, è un rapporto molto intimo fra due persone. Ovviamente c'è tipo e tipo di baci. Se parliamo del bacio fra innamorati, è ovvio che c'è la possibilità di trasmettere germi da una bocca all'altra, e tutte le volte che dei germi nuovi vengono a contatto col nostro organismo, questo organismo viene sollecitato immunologicamente. Quindi, in parole povere, chi ci bacia ci fa una forma di gratuita vaccinazione, la vogliamo mettere così. Dai, così mi piace. Sì, però non è solo questo. Certo. C'è dell'altro, sempre parlando dal punto di vista scientifico, le donne pare che quando vengono baciate si rilassino, mentre gli uomini si accendono. E c'è anche un altro tipo di ricerca che ha evidenziato il fatto che attraverso la saliva l'uomo passa alla donna del testosterone, che quindi aumenta di concentrazione. Tutto questo per dire che il bacio non è così facile da interpretare scientificamente, ma per rimanere nell'ambito della mia specialità, quindi della microbiologia, il bacio viene messo ovviamente viene additato come la causa di infezioni. Allora, diciamo brevissimamente qual è forse l'unica vera infezione più trasmissibile col bacio: è la mononucleosi, che viene proprio detta la malattia del bacio, che però nell'individuo sano non è assolutamente un dramma. Si ha una sindrome febbrile, un po' di ghiandolette così un po' più ingrossate, ma voglio dire, facciamo la battuta: quanti vorrebbero avere questi sintomi pur di essere baciati? È vero, è vero, professore. E quindi vale la pena. Mentre dobbiamo assolutamente scongiurare quei fantasmi che il bacio può trasmettere infezioni gravi come l'HIV, come le epatiti, assolutamente no. Certo, può trasmettere una tubercolosi, nel caso però il paziente sia ammalato in una fase molto avanzata. niente di altro. Direi che visti i lati positivi, a parte le farfalle nello stomaco che penso un po' tutti ricordiamo di aver avuto, sì, visti gli elementi positivi anche dal punto di vista sociale, oltre che immunologico, endocrinologico, questi rischi valgono la candela. Quindi anche dal punto di vista scientifico io inviterei la gente a baciarsi tanto. E io la bacio, professoressa Gismondo. Grazie per essere stata con noi. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme con i nostri baci. Essere e benessere. Ringrazio Petra Lacorte, in regia, la parte tecnica, per questo effetto bacioso, e come sempre Laura Vanossi in redazione. Alberto, quindi abbiamo il placito anche della professoressa Gismondo. Baciare si può, e fa bene, eh? Chi non darebbe il placet a una cosa così bella, così emozionante e poi anche direi così costruttiva come un bacio? Io credo che anche nella logica del primo bacio, dell'educazione di un figlio, sia proprio magnifico raccontare la meraviglia del proprio primo bacio, raccontare le proprie storie di baci, e questo sempre nella direzione di accompagnare chi sta crescendo verso un'esperienza che, ripeto, se gestita male invece, se anticipata, se buttata via, lascia un brutto ricordo, come un po' ci ha raccontato anche qualche ascoltatore stamattina. Senti, Marco mi scrive, dato che ti ricordi che la professoressa Gismondo ha detto è quasi come un vaccino, mi scrive: aiuto, è un bel po' che nessuno mi vaccina. Non lo so, mandiamo questo appello. Ma Alberto, io vorrei portarti con me all'asilo. E io vengo. Perché proprio sono tu hai i bambini piccoli che frequentano alcuni dei quattro, quindi ci vai tutte le e ci sono i piccinini, si baciano. Sì, direi che questo è di nuovo un esempio di come poi i comportamenti dei grandi possono entrare, ecco, nel mondo dei bambini con significati completamente diversi. Solamente i baci dei bambini più piccoli sono o baci imitativi, mm-hmm, e rientrano nel gioco facciamo finta che io sono grande, oppure baci esplorativi, cioè hanno comunque grande curiosità e vogliono provare ed esplorare il territorio dei grandi facendo cose simili. E in linea con noi abbiamo Drago di Capedrago, chiedo asilo. Ciao Drago. Buongiorno, ciao a tutti. E noi veniamo all'asilo. E venite all'asilo, stasera l'asilo apre anche la sera, quindi potete venire tutti quanti a vedere come ci si bacia all'asilo Stoppani, è stato ribattezzato così per l'occasione, in quanto facciamo una specie di commemorazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia anche stasera. Vabbè, comunque stasera per il bacio, però diciamo, diamo le coordinate, perché stasera dove, sì, come, vero, quando, sì, perché allora, stasera c'è Chiedo Asilo Live alle 21 alla Sala Collina in via Monterosa 91. Quindi se non avete prenotato potete ancora farlo al chiedoasilo@radio24.it, oppure se non volete prenotare perché siete di fretta, per lo stesso non vi manderemo certo via. Vi accoglieremo con un bacio. Senti, sì, il tuo primo bacio, naturalmente andiamo all'asilo. Sì, come si chiamava il lei? Il primo bacio all'asilo non me lo ricordo, però io mi ricordo che il bacio era una specie di penitenza ai tempi dell'asilo, non era esattamente quello che significa poi quando si cresce. Dare un bacio a una bambina ci si vergognava tantissimo, si veniva presi in giro dagli altri maschietti e addirittura faceva parte delle penitenze. Eh sì, dire fare baciare lettera a testamento, esatto. Ti ricordo. Quando si riusciva a baciare c'era una sorta di eccitazione negativa che percorreva tutto il gruppo. Senti, io adesso non ti voglio rubare altro tempo perché so che state preparando le ultime cose, allora appuntamento a stasera, Chiedo Asilo Live, via Monterosa 91, giusto? Giusto, alle 21. Potete anche un po' prima, sarete anche accolti con una schiscetta, come si dice in milanese, per tradurlo in italiano potremmo dire con un po' di viveri per sopportare la lunga serata, per tappare il buchino. Grazie, esatto. Grazie a Drago, saluta K. Ci vediamo stasera, ciao, ciao. Arrivederci. Ci ha lasciato e io no, è Alberto forse che è caduto, ma io per fortuna ho in linea, mi ho chiesto a Salvatore Carrube, editorialista del Sole 24 Ore, conduttore di Un Libro Tira l'Altro, in onda la domenica alle 13.30, di venire a darmi anche lui una lettura del bacio. Ciao Salvatore, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora io ti propongo due baci erotici, considerando però che l'erotismo del bacio è tanto più sorprendente quanto meno esplicito e invece insolito per l'ambiente in cui si svolge. Allora ti ricordo due baci classici. Il primo è il bacio con il quale si apre il Cantico dei Cantici, un libro dell'Antico Testamento che appunto inizia dicendo: mi baci con i baci della sua bocca, sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. E poi più avanti fa ancora una grande esaltazione del bacio dicendo: come un nastro di porpora tra le tue labbra e la tua bocca è soffusa di grazia, come spicchio di melagrana la tua gonta attraverso il tuo velo. E poi c'è l'altro bacio straordinariamente erotico, secondo me, per l'occasione che gli dà lo spunto, ed è il bacio di Paolo e Francesca, che non dimentichiamo, cominciano a baciarsi leggendo un libro, leggendo una storia d'amore, quella di Lancelotto e Ginevra, una storia meravigliosa, e questa storia appunto conduce i due a darsi il bacio fatale. Quindi un libro tira l'altro, ma anche Salvatore un bacio tira l'altro. Eh sì, naturalmente. Comincio da te e poi a mia moglie e a tutte le ascoltatrici. Grazie a Salvatore Carruba, grazie Salvatore per essere stato con noi. Abbiamo ancora tempo di sentire Annalisa che ci chiama da Milano. Buongiorno Annalisa. Buongiorno a voi. Che bacio ci regala? Ah, un bacio internazionale, anzi un non bacio, perché non siamo riusciti a capirci. Ma com'è successo? Beh, c'è sempre tempo, no? Possiamo recuperare o no? No, no, ormai appartiene alla vita precedente, era la vita in cui ero studentessa e facevo l'Erasmus in Germania. Sì. Oggi sono mamma, per cui... Ormai no, quel bacio lì è da tenere nel cuore, ma insomma un bacio esatto. Non dato. Nel cuore, ma è stato bellissimo, veramente, anche se è stato non dato. Perché eravamo così coinvolti in questa terrazza sul Reno a ballare la salsa. Lui era spagnolo, io sono italiana, avevamo tutti fidanzati e mi ha detto una frase in tedesco con una pronuncia in spagnolo che io non ho capito. Sì. E ho capito dopo la terza volta che me l'ha ripetuta che mi stava per dare un bacio, ma ormai la passione era, l'emozione era passata e quindi... È questione a volte di un attimo. Abbiamo ripreso le biciclette perché eravamo studenti squattrinati in bicicletta, siamo tornati nella nostra casa per studenti e ci è rimasto sospeso questo bacio che a distanza di 15 anni o forse di più rimane un ricordo bellissimo di una notte fantastica. Grazie Annalisa, buona giornata, grazie per essere intervenuta, grazie ad Alberto Pellai. Sulla pagina di Essere Benessere troverete il messaggio a cui faremo avere a casa la piccola enciclopedia del bacio, ma io vi invito ad entrare come ogni giorno nel nostro laboratorio di benessere Daily Lab, ogni giorno un consiglio dei nostri esperti per imparare a stare bene, a prendersi cura del proprio benessere, a diventare, come si dice, soggetti attivi. Grazie per essere stati con noi, io vi aspetto domani come sempre dopo il GR delle 11. E allora un bacio. Essere e benessere.